later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli la musica è data dai gorgheggi di polli transitoriamente vivi, Kappa e Drago contribuiscono alla cacofonia generale. Musicoterapia, Drago. Forza, no, dai. Non sbuffare, non musicoterapia. È l'asma ereditata da mia nonna Maria. Se servisse almeno a far passare l'asma la musicoterapia. L'ukulele, anzi in questo caso meglio dire il banjolele, è uno strumento che può darti nuove ragioni di vita. Io vorrei che tu lo provassi, perché no, solo provandolo si capisce la forza di questo strumento. No, vabbè, non mi interessa. Ma cosa non ti interessa, Drago? L'asma, chitarristi leggendari hanno perso la testa per l'ukulele, sì, perché non puoi perderla anche tu? Perché non sono un chitarrista leggendario, forse. Si sa di George Harrison. Per esempio, il povero George Harrison negli ultimi giorni della sua vita suonava l'ukulele, passava tutte le giornate a letto suonando l'ukulele, lui con Jeff Lynne degli Hello. Cioè, stavano a letto insieme. E poi, Drago, potrei farti il nome di tanti altri, Drago, non so, Pete Townsend, Todd Rundgren, Eric Clapton, tutti hanno perso la testa per l'ukulele. Sì, e tutti si sono trovati Jeff Lynne nel letto, che con la scusa dell'ukulele, poi... Hi, I'm Jeff Lynne from ELO. And I like to stick my ukulele deep in the ass of famous musicians. Sei malinconico. Musicoterapia. Sei esagitato. Musicoterapia! Sei apatico. Musicoterapia. Hai il Douglas. Oh! Oh! Musicoterapia. Oh! Sei affamato. Musicoterapia. Io ho tanta fame. In questo mondo tecnologizzato, i supereroi tradizionali sono caduti in disgrazia. A Superman va in pensione! Una nuova generazione di semidei imperversa nei cieli della fantasia. Essi arrivano dalla rete. Essi sono tanti, sono brutti e sono cattivi. Il capostipite di questa nuova legione di supereroi telematici si chiama Mailer Demon. Sono Mailer Demon! Mailer Demon spadroneggia con prepotenza, osteggiato solo dal suo nemico giurato. Error 404. Sono Error 404 e sono io, il re dei supereroi! Come osi? Tu stai passando di moda, Error 404! Non è vero! I computer ricevono posta da me ogni giorno, nell'ordine di milioni di messaggi! Quanto sei patetico, Mailer Demon! Hai idea di quanti link scaduti infestano i siti? Io sono come una mina anti-uomo! Quello che sembra un link normale, affidabile e sicuramente latore di informazioni, in realtà è un link marcio, e quindi arrivo io! Error 404! This page does not exist anymore, and you now are in deep shit because you cannot find the information you were looking for anywhere else, and therefore you're fucked! Che cosa potrà succedere al mondo se Mailer Demon e Error 404 decideranno di farsi una guerra senza quartiere? Prendi questo, maledetto! E allora tu questo! E allora tu questo! Ma perché ci alterniamo così? Non posso darti due pugni di fila io? Questo! È questo! Riusciranno a bloccare il flusso di informazioni democratiche garantite dal WWW? Non perdetevi le prossime avventure di... Mailer Demon! Nexus Error 404. La fabbrica di polli. Sì. Sì, ho capito, ma... Ma io il contratto ce l'ho qui davanti, eh? Eh sì! Allora, è valido per 3 concerti. Che fanno... Sì, un attimo. Fanno... Il primo giorno fanno matinée e serata. Il secondo giorno fanno solo la sera, no? Hai capito? Pronto? Pronto? Ma no, ma ancora! È la terza volta che cade la linea. Polo, con ma chi no... parlavi? Cosa c'è? Cosa c'è? Qui siamo nel 2007. E per parlare col Brasile è come 100 anni fa. Vabbè, dai. Non si capisce niente. Cade sempre la linea. Ma cosa? Ma sei ancora dietro i cocoriti musicisti bloccati in Brasile? Beh, per forza, Ormai sono arrivato quasi alla fine, è inutile mollare adesso, no? Solo che c'è ancora un piccolo problema sanitario. Ah sì, la questione delle malattie tropicali, la vaccinazione, ma no, la quarantena. Peggio no. Ancora. Come peggio? C'è qualcosa di peggio delle malattie tropicali? Allora, pare che uno dei cocoriti abbia il Douglas. Il Douglas. Le nozioni di primo di classe. Il morbo di Douglas, o più comunemente detto il Douglas, prende il nome da attore americano Michael Douglas e presenta sintomi molto evidenti come stato di sovraeccitazione sessuale perenne, tendenza a amori ancillari con personale femminile di alberghi internazionali e desiderio di sottomettere sessualmente anche oggetti inanimati, quali ad esempio orologi a cucù. Ma quindi, Pollo, cosa succede? Che uno dei cocoriti è sempre eccitato, da fastidio agli altri? Sì, ittifallico, si dice. Per quella gente lì è normale, no. Ma come? Ma in che senso è normale? Il Douglas è una grave malattia. Non c'è niente di normale nel Douglas, Pollo. Ma no! Come ma no? Ma i cocoriti sono animali, A sangue caliente, poi. Molto caliente. Ah. Poi mangiano sempre angurie, papaya, ananas, tutti i frutti tropicali. Sì, tutti i frutti. Bevono cocco fermentato, guaranà e tutta quella roba lì sudamericana. Cantano, suonano, sudano, sì, perché sudano un casino. E poi? Si fanno 7-8 acidi e poi ci credo, che le vengono due linee di Douglas, Come due linee di Douglas? Ma cosa stai dicendo? Mica la febbre. Oh, signor, quante palle per un cocorito che ha sempre voglia episcopale. Episcopale. Ma lo sapevano già fin da subito, no? Che la questione episcopale sarebbe venuta fuori prima o poi. Ma perché? Ecco, i cocoriti è così, Sti cocoriti maledetti. Adesso cosa succede? Non ho capito. Allora, adesso devono isolare il cocorito col Douglas. Sì. Fargli fare una settimana di docce fredde. Chiamare un dottore specializzato in questo tipo di malattia. Sì. Che non è mica facile trovarlo. Poi, finalmente, forse, possono partire. Vabbè, ma si tratta solo di aver pazienza, quindi. Lo so, ho capito. Ma io vado in sbattimento, Aia, aia, aia. E beh, per forza, No, perché secondo voi ho qualche alternativa? Beh, ma prova a non andare in sbattimento. Vabbè, questa è un'alternativa. Come si fa? Non lo so, ma provaci. No, perché tu sei capace a non andare in sbattimento. Ma uno ci prova, giustamente. No, perché, scusa, se tu mi dici come si fa, io magari poi posso cominciare a fare a meno della paroxetina. Ma non ci sono regole, Polo. La soluzione è dentro di te. Uè, non cominciamo con questa storia della soluzione che è dentro di te, Perché vado in triplo sbattimento, carpiato, senza nemmeno passare per la fase doppio sbattimento, including anoressia, epilessia e totale dislessia momentanea. Ma no, ma Polo, scusa, ma hai ragione, perché smettere con la paroxetina? Infatti. Quella è una certezza, ormai sai che c'è, una volta che sai che c'è non puoi più farne a meno. Quindi tranquillo. Questo è vero. E quindi? E quindi vado in sbattimento lo stesso, no? Però sono attutito, Cosa succederà adesso? Il morbo di Douglas si diffonderà rapidamente, rendendo impossibile la vita alla parte femminile della fabbrica? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo iperpriapico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.